Un mesetto che non vi sentivo, dopo vado in astinenza, ho bisogno di chiamarvi. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Riportiamo le filosofie in cantina con le religioni e la PlayStation 2. Sillogismi e imperativi hanno fallito come il sol dell'avvenire, così sia. Palla buona per Müller, occhio a Robben che arriva uno contro uno, Evra in pressing su di lui, Robben cross profondo, secondo palo Douglas Costa, la rimette in mezzo Barzagli e poi Müller. 1-0 Bayern con il piazzato di Müller. Palla proprio per Lewandowski, 2 contro 1, arriva il raddoppio da parte di Evra, ma arriva anche Robben, posizione regolare, Robben sul mancino, Robben, bisogna chiudere, Robben che trova un gol bellissimo. 2-0 Bayern, contropiede perfetto per il Bayern. A Quadrado che prova a inventare, va a cercare Mandžukić che arriva su questo pallone, trova Dybala, Dybala, Dybala, Dybala, prova a svegliare la Juve col primo gol in Champions, abbastanza casuale nell'errore difensivo del Bayern. Tanto Pogba recupera un gran pallone, Mandžukić prova a inventare per Morata che la mette in mezzo, la deviazione 2-2, 2-2, è arrivato Sturaro, è arrivato Sturaro e la cambia lui. 76esimo, non finisce mai, non finisce mai. Perché non finirà, non finirà mai. Pardo, eccolo. Ci sei? Mi senti? Sì. Senti, sono incazzato nero. Che è successo? De Luca ha provato a consolarmi, anche Andrea Roccabelli in regia. Però insomma, grande partita, ma non mi va giù, 2-2, poteva essere forse di più. Sono abbastanza d'accordo con te, anche se poi in realtà per 60 minuti non c'è stata partita, quindi pure questo va detto, la reazione della Juve è stata una reazione importante e mi rendo conto che questa sia una posizione di retroguardia, o comunque minoritaria in questo momento nel paese. E noi ce la prendiamo tutta. Sì, il Bayern è più forte della Juve, ieri si è visto, il Bayern è una delle squadre capaci di incartartela in qualsiasi momento, secondo me Bayern e Barcellona sono un gradino sopra tutte le altre, però anche a me rimane un po' di curiosità di pensare che si poteva provare a giocare in maniera diversa, probabilmente no, probabilmente se avessi provato a usare un po' di più. Bravo, è questo che adesso, dico. Sì, però forse adesso piangevi di brutto, insomma. Quello che completamente la Juve ha mancato nel primo tempo è stato secondo me un approccio forte alla partita, cioè veramente l'ho vista in balia degli avversari che sono fortissimi. Lo chiamiamo timore reverenziale? Sì, lo chiamiamo timore reverenziale, lo possiamo anche chiamare differenza tecnica, perché okay, insomma, non credo che nessuno si possa offendere nel dire che il Bayern è più forte della Juve. Okay. È chiaro che è durissima adesso, secondo me, insomma, se c'era un 30% prima, adesso siamo scesi al 20%, però insomma, comunque la reazione, sai, è comunque successa una cosa che in qualche modo era non preventivabile, cioè sul 2-0 quanti in Germania e in Italia avrebbero pensato che si sarebbe arrivati al 2-2? E questo potrebbe essere un segnale di autostima e di speranza per la Juve, poi ritorna tra 3 settimane, quindi ci sono delle incognite. Ci sarà una partita, è chiaro che il Bayern è strafavorito. Allegri e Guardiola uno dietro l'altro. Era, diciamo, un test importante per noi, per vedere se eravamo all'altezza di giocare contro una squadra del genere. Il secondo tempo poi diciamo che siamo stati un pochino più spregiudicati, cercando di alzare il baricentro della squadra e andarli a prendere più alti, e così siamo stati premiati. Direi sono, tanto per passare il turno bisogna vincere una partita, quindi non l'abbiamo vinta qui, bisogna cercare di vincere a Monaco. Una delle giornate più speciali della mia carriera, venire qua e giocare come abbiamo giocato. So che il risultato è sempre quello che conta, lo rispetto tantissimo, ma abbiamo fatto una buonissima partita. Allora, il dato politico, come piace dire a te, è che Buffon aveva chiesto di andare a Monaco di Baviera non a mangiare visto le salsicce, ma a giocare una partita per passare il turno ed è stato servito. L'altro dato politico è che chi parla e chi parlava di calo fisico della Juventus è stato servito. Sì, sicuramente il finale della Juve è stato incoraggiante, anche se in realtà ieri ci siamo resi conto che poi nei 90 minuti non c'è partita, però ricordati. Siamo a 180, è come segnare il canestro da tre punti sulla sirena, hai capito? E ti manda, all'intervallo alla pari. Sì, ti manda all'intervallo alla pari, proprio pari non sono, perché insomma comunque i due gol fuori casa pesano e il vantaggio del fattore campo al ritorno pesa. Guarda, io non mi faccio francamente grandi illusioni, però ti dico anche che ieri è successa già una cosa bella, una cosa importante, che avremo un'altra grande serata, che la Juve ha dimostrato di avere un carattere incredibile, che ci sono degli episodi arbitrari sui quali devo sottolineare. E poi ne parliamo. La Juve non ha protestato molto. Non ha detto una parola, e questo è secondo me un segno di grande maturità della squadra. Assolutamente, questo veramente mi levo il cappello di fronte a tutto questo. Beh, certo che hai commentato una grande partita. Sì, una grande partita, molto intensa, molto viva. La differenza è stata imbarazzante per 60 minuti, veramente imbarazzante. È stato un momento in cui ho temuto l'imbarcata e non è andata così. E sono d'accordo con te che forse alla fine si poteva provare a usare anche qualcosa di più. Ha sbagliato l'approccio la Juventus? Sicuro, ha sbagliato l'approccio, però, sai, quando giochi col Bayern o col Barcellona, che secondo me sono le due squadre migliori che ci sono in questo momento in giro per l'Europa, non sai mai se hai sbagliato l'approccio o se semplicemente non sei good enough, dicono gli inglesi. Yes. Cioè bravo, yes, ma comunque inferiore agli avversari. A proposito di inglesi, ricordiamo che quegli altri, l'Arsenal in casa, Arsenal che insegue il titolo inglese, perché è lì a soffiare sulle natiche di Leicester di Ranieri, ha preso due fischi dal Barcellona. Guarda, ciao. Queste prime sei partite, poi stasera ci sono le ultime due, acuiscono il rimpianto di Siviglia. Perché la Juve, secondo me, quella è stata l'unica notte sbagliata, forse dell'intera gestione Allegri. Secondo me la Juve con l'Arsenal passa, col City ha dimostrato di potersela giocare, addirittura ha vinto tutte e due le partite. Cioè, con queste squadre dell'aristocrazia europea, parte favorita, secondo me anche col Chelsea o col Paris Saint Germain, ma secondo me pure con Real, che ho visto l'altra sera a Roma, e con Real te la puoi anche giocare. Sì. Con quelle due è durissima, però ripeto, mancano tre settimane, in tre settimane possono anche cambiare le cose in male ovviamente, ma anche in bene, quindi insomma, ti prego, pessimista oggi, non volevo essere troppo ottimista. Tanto sono felice però di aver raccontato una partita che è stata oltre che bella e intensa, forse la più bella che ho visto in stagione, dai Pierluigi, forse la più bella adesso no. Magari. Vabbè, 8-0-0-24-0-0-24, tanto ce lo dicono loro, i signori convocati. Ci fermiamo per il traffico e torniamo. Tutti convocati. Tutti convocati. E fino a che loro hanno retto questo ritmo, noi siamo stati bravi a reggere l'urto difensivo, l'ultimo offensivo loro. E non siamo stati meno bravi in alcune situazioni perché potevamo far meglio tecnicamente. Poi dopo sono calati, perché giocare 95 minuti a quei ritmi credo che sia quasi impossibile. E noi abbiamo preso fiducia senza liti, abbiamo dato pressione, abbiamo giocato con meno protezione davanti alla difesa. Di dietro sono stati bravissimi, a metà campo uguale, quindi abbiamo recuperato la partita. Abbiamo avuto anche un paio di situazioni favorevoli dove potevamo far gol. Il risultato è quello che è. È quello che è. Se mi domandi la partita, il calo, sia un calo ultimo 15 minuti, tu non attacchi come abbiamo attaccato ultimi 15 minuti. So che in questo paese la condizione fisica è una delle cose più importanti. A me non mi c'entra un cazzo la condizione fisica. Per me non esiste la condizione fisica come una questione individuale. Quando tu ricevi un gol, la questione animica è quella importante. La sua è più alta e la nostra è più bassa. E gestire quel minuto è la cosa difficoltà. Sono tre giorni che aspetto Maurizio Crosetti da Repubblica. Ciao Maurizio. Eccoci, buongiorno cari. Eccoci. Cos'è? Qua. Non gliene frega cosa della condizione fisica? Non lo so perché credo parlasse in catalano. In credo tedesco, che fosse... era il tedesco di Trapattoni. Vabbè, però almeno lui dice cose. Dice cose e fa cose, vede gente. Il nostro pezzo. Sì, a me piace molto. E vedrà altre cose, vedrà altra gente l'anno prossimo al Manchester City. Il difficilissimo poteva diventare tremendo e una serata pessima poteva produrre un risultato devastante, ma anche così la Juve ne esce malmessa e quasi malmenata. Anche tu non contribuisci. Io premetto, non sono tifoso, ma non sono nemmeno gufo, e accetto ogni forma di gufismo possibile e aspetto gli ascoltatori 800240024. Però anche tu, Crosetti, non è che ti impegni molto a sollevarmi l'umore, perché io sono uscito, come diceva Pierluigi che ha raccontato questa partita, sono uscito ieri sera un po' arrabbiato. Beh sì, anche se devo dire, se tu fossi stato allo stadio avresti pensato, accidenti, con il prezzo di un biglietto, peraltro molto difficile da trovare, ho visto due partite. Verissimo. Cioè non è che capiti tutti i giorni che due al prezzo, all'esse lunga forse. No, era la Champions in offerta speciale, prendi paghi uno e vedi due. No, beh. Arrabbiato dal punto di vista di cosa? Del tifoso juventino che sperava di passare il turno? Ma guarda, posso dire la verità, arrabbiato per l'approccio che la Juventus ha avuto alla partita, perché nell'ultima mezz'ora abbiamo capito che la Juventus fisicamente sta bene, se no non gioca però, in quel modo. Sì, però io credo che l'approccio dipenda soprattutto da quello che ti fanno fare gli altri. Il Bayern è partito con una padronanza del territorio, sì, del pallone, delle azioni e anche di se stesso decisamente superiore. La Juve era annichilita da tutto questo, pur aspettandoselo, perché questo ha colpito, cioè nessuno immaginava una partita diversa, ma non così. La linea della difesa del Bayern era praticamente sulla riga di centrocampo, c'era una metà campo vuota con dentro il portiere che era in posizione di libero Neuer, una fotografia veramente la solitudine del numero primo, ha twittato qualcuno ieri sera, mi pareva in Zazzaroni, qualcosa del genere. È vero questo, e la Juve ha fatto un po' quello che ha potuto, e il Bayern ha sbagliato quel gol incredibile con Müller, e poi vabbè, poi la partita l'avete vista tutti, la Juve ha avuto questa coda di scorpione che le ha permesso di pungere due volte, anche complice un paio di errori della difesa riserva, insomma, del Bayern. Infatti secondo me, però io credo che avrebbe fatto poco prima, cioè la partita però rispecchia ancora poco di quello che è successo, però, cioè, guarda, questa era una partita che un'altra squadra imbarcava, non dico sette gol come la Roma, sono d'accordo, quasi, son d'accordo, ma la Juventus è una squadra di un altro livello e appartiene a un altro pianeta, secondo me. Pierluigi, ieri abbiamo discusso a lungo su dove piazzare la linea del pressing, ti ricordi? E non è andata bene, nel senso che era troppo bassa, appunto, che la Juve si è fatta schiacciare troppo. Però io sono d'accordo con Cross, adesso io ti dico che secondo me la Juve poteva provare nel finale a vincerla forse con un pochino più di coraggio, ma in realtà francamente io penso che se avesse avuto un approccio diverso alla partita, diciamo più sbarazzino, più champagnone, poteva finire male, poteva finire veramente molto male. Poi sì, chiaramente quella palla gol del Bayern, che il Bayern si divora dopo pochi minuti, fa sì che fino al 43esimo praticamente si sia sulla situazione di parità. Non lo so, io la mia sensazione è che non ci sia partita, però la Juve ha dimostrato, cioè per 90 minuti non poteva far partita pari, ha dimostrato che può in alcuni momenti di partita riuscire a costruire delle cose che possono mettere in difficoltà il Bayern, e quindi la strada è strettissima, lo era ieri sera, lo sarà ancora di più a Monaco, però la Juventus è viva, però un viottolo c'è una speranza, c'è, perché in realtà quello che è successo negli ultimi 20 minuti è successo e abbiamo visto il Bayern in difficoltà anche sul 2-2 con un paio di situazioni di confusione piuttosto interessanti. Sul 2-1 c'è stata una palla gol clamorosa del Quadrado, insomma. Però lo schema della partita rimane quello, lo è stato a Torino e lo sarà anche a Monaco di Baviera: aspettare, cercare dei blitz improvvisi di recupero del pallone e appoggiarsi saltando il centrocampo sulle punte. Alternative non ci sono. Di questo parliamo. Se la Juve avesse provato a giocarsela in maniera diversa, probabilmente avrebbe preso l'imbarcata. No, Emanuele Gamba Cross, sul tuo giornale Repubblica, oggi si dà da questo giudizio ad Atkinson: voto 4,5, nego un rigore alla Juve in mezzo al Bayern ed entrambi i gol tedeschi sono viziati da irregolarità. Voglio sottolineare che nessuno della Juventus è andato a far polemica sull'arbitro. No, ma l'arbitro ha sbagliato cose anche importanti, ma non ha influito minimamente, come dire, sul senso della partita. Oggi ho letto un titolo comico, c'è un giornale sportivo che titola Juve derubata, quello è puro umorismo. Sì. La Juventus è stata graziata dal Bayern nel primo tempo, ha avuto l'orgoglio di riprendere un pezzo di partita nel secondo, ed è molto più debole del Bayern, si sapeva, e lo sport è ancora un luogo in cui se c'è qualcuno di molto più forte di te, questo qualcuno vince. Ed è anche giusto che sia così. Poi le ragioni per cui qualcuno è molto più forte le possiamo analizzare fino a domani mattina, dai bilanci alla politica. Vabbè, okay. A tutto quello che volete, però è una partita in cui l'avversario è decisamente più forte di te, tu ti mangi le mani per aver buttato via, anche questo si è detto fino alla noia, al primo posto ormai quasi raggiunto nel girone eliminatorio, adesso vai a Monaco, ti giochi la partita, io credo, spero per la Juve, con una difesa a tre, con il ritorno di Chiellini e magari di Alexandro, con un centrocampo più folto, mm-hmm. e con Pogba che non deve stare a sinistra a fare i giochi di prestigio inutili, e magari nel mezzo può essere più incisivo, con un contropiede che verrà lanciato nella speranza di qualcosa, ma anche con il fortissimo rischio che con Lewandowski nel centro della tua area, in casa sua, sì. e con qualcuno che non sbaglia dei gol pazzeschi, il rischio che dopo 10 minuti sia 2-0 per il Bayern c'è. Questo è evidente. Questo sì. Allegri che diceva magari finisce 0-0 non è un bieco difensivista alla rincarnazione di Trapattoni, ma era una frase perfetta, e magari Allegri ha detto magari finisse 0-0, ma io non ci credo, ha avuto ragione ma no, lui. Ma certo, ma è chiaro, poi ma chiunque conosca queste due squadre, la Champions, i valori in campo, e abbia un po' di immagini negli occhi, poteva pensare una partita così? Forse non si poteva pensare che addirittura la Juve avrebbe patito il Bayern in casa più del Barcellona a Berlino, perché è andata così, cioè contro il Barcellona la Juve è rimasta in gioco per più di un'ora. Ieri sera, dopo ma un sai quarto cos'è, d'ora, ci guardavamo che, tutti e dicevamo ma sono due sport diversi questi. Ma sai cos'è? Che il tiki-taken aggiunge una certa, come dire, vigoria fisica al gioco di Guardiola, ed era questa la grande scommessa, ormai era arrivata alla fine per il Bayern Monaco. È riuscito un innesto pazzesco, altro che due partite con un biglietto solo, due squadre con una squadra sola, sì. due filosofie, due anime di calcio in un allenatore solo, cioè, è una sintesi secondo me ancora più mirabile di quella che gli è riuscita al Barcellona, dove peraltro c'era Messi che da solo può risolvere tutto. Cioè qui lui ha creato, poi magari non vince la Champions neanche quest'anno, però ha creato una macchina di calcio che è come fosse una specie di enciclopedia sì. degli ultimi vent'anni del meglio del gioco del calcio, sì, sì, dove sì, metti sì, dentro sì, sì, un po' di Cruyff, un po' del Barcellona sì, di Messi sì, un sì. po' di Guardiola, un po' di tutto il meglio che c'è. Sì. Senza avere il marziano assoluto, poi ribadisco. Senza avere il marziano assoluto, con Messi, né Maradona, né Platini. Con alcuni marziani di buon livello. Sono tutti marziani, quasi tutti marziani, e non c'è il principe della galassia. Non c'è il principe della galassia assoluto, però è una squadra meravigliosa, dai. Pierluigi, deludente Pogba. Ma tutto. Cioè, tutta la costruzione della manovra della Juve è stata in grande difficoltà. La Juve ha vissuto 20 minuti eccezionali grazie a degli strazi, grazie alla grinta, alla voglia di rimettersi in gioco, però dal punto di vista del gioco e della costruzione proprio qualitativa il gioco non c'è stato, quindi Pogba si è visto poco, si è visto pochissimo Marchisio. Hernanes nel secondo tempo ha tirato fuori una buona prestazione. Hernanes secondo me ieri ha dimostrato che con tutti i suoi limiti però è un giocatore da battaglia, sì, sono d'accordo. Che ha sono personalità, d'accordo. Poi sono questo non cambia il senso della stagione, che è assolutamente negativo, però ha caratteristiche secondo me diverse da Marchisio in quel tipo di situazione. Cioè uno che comunque ha preso per mano la squadra nel secondo tempo ieri, si è messo a fare il tiro della situazione, ovviamente con meno sì, qualità tecnica, sì, con un po' sì, di confusione, sì, sì, sì, però sì. secondo me ieri c'è stato il suo marchio. Morata è entrato molto bene, Turano ha fatto un gol da attaccante, insomma la Juve ha dimostrato che ha delle qualità. Io penso le palle, che dal punto di vista della prima questa reazione comunque a qualcosa potrà servire, poi il rischio di essere 2-0 al decimo esiste, cioè, è evidente, esiste. Perché... Ragazzi, vi chiedo un'ultima cosa, in 30 secondi disegnatemi tatticamente la partita di ritorno, cosa deve fare la Juve, Maurizio? La Juve deve difendere più alta, meglio con uno schema difensivo diverso, come dicevo io penso con i 3 più 5 di fatto, e deve sperare in bene alla fine in un contropiede, deve sperare che la sua grande capacità difensiva non venga devastata subito dal Bayern, deve sperare che una distrazione il Bayern la conceda e poi magari vada in palla, però deve sperare forse nell'impossibile, nel senso che immaginare il Bayern che butta via la partita. Vi ricordate cosa era successo a Porto quando ne beccò 3 e poi ne fece 6 al ritorno? Cioè il Bayern è una squadra spaventosa, ecco che la Juve però accosterà senza spaventarsi. Potrebbe essere già una strada. Perfetto, Pierluigi. Sì, la strada è quella, è chiaramente un viottolo di campagna, un vicolo di Roma dove qualcuno con la bocca fa pezzi una canzone come cantava Dalla, è chiaramente una strada strettissima ed è quella. Difesa, ripartenza, situazione di palla inattiva e deve andarti tutto bene, deve andarti tutto molto bene. Le qualità ci sono, ieri si è visto che comunque insomma la Juve è distante chiaramente nell'organizzazione di gioco, è distante anche nei singoli, ma non è il 2013, non credo che ci siano dubbi, non è il 2013, sì. Nel 2013 quella reazione non c'era mai stata, oggi c'è, così come c'era stata a Barcellona, una partita in certi momenti addirittura alla pari dopo una partenza shock, quindi sì. bisogna crederci. E sarebbe un peccato non farlo. Ciao Pierluigi, grazie, ciao, sentiamo ciao, domani. Ciao. Maurizio, grazie, a presto. A voi un bacio, ciao, ciao. Ciao Cross, ci fermiamo per il traffico, poi cominciamo a parlare con gli ascoltatori. No, non il traffico naturalmente, lo so che c'è la borsa. Poi parliamo con gli ascoltatori, comunque, traffico o borsa che sia. 800 24 0024 è il numero verde. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Convocati. Io leggo anche un sacco di messaggi, 349-238-6666, sia SMS che WhatsApp, di segno molto diverso, c'è chi ha fiducia, chi non ce l'ha, chi è divertente, chi non lo è, chi insulta, e non è il caso. Parliamo con gli ascoltatori invece. 800-24-0024, Raffaele, dica. Sì, buonasera dottor Genta e grazie per la convocazione. Dica. Sono tifoso juventino, ieri ho seguito la partita in TV. Sì. Già prima della partita io partivo da un presupposto. Ci sono due squadre che giocano a fantacalcio, Bayern e Barcellona, tutte le altre giocano a calcio. Sì, quindi difficilissimo l'ostacolo Bayern, Guardiola fa giocare benissimo le squadre. La Juve ha il rammarico che poteva fare il terzo gol, però io sono contento della partita perché poteva finire malissimo, io sul 2-0 ero depresso, ha avuto una bella reazione e che anche... Raffaele, posso interrompere un secondo che sto vedendo Sarri che parla? Un attimo, mi interessa. Triste del Villarreal, non lo penso neanche se si difendono perché sono costretti, perché loro per caratteristiche tecniche, per caratteristiche tattiche, per mentalità non mi sembrano una squadra che si chiude a priori, che fa una scelta a priori, se lo fa perché noi li ostringiamo a difendersi. E si risolve continuando a lavorare e sprecando qualcosa di meno di quello che abbiamo fatto, perché mi hai nominato 4 partite in cui abbiamo concesso 7 palle gol e ne abbiamo costruite 29. Quindi vuol dire non sempre chiudersi ripaga. E poi non è nella nostra mentalità, no, se faremo una partita chiusa qualche volta lo faremo perché ci hanno stretto, non per scelta. Quindi dobbiamo solo continuare a lavorare e risolvere il problema della concretezza su quello che andiamo a creare. Insomma, Sarri ci crede, domani con il Villarreal si parte da una sconfitta, 1-0, rimediabile, giocherà Higuain. Raffaele, mi dica ancora, aveva qualcosa da aggiungere? Dica, concludo pure. Che, sono comunque contento della reazione della Juventus, siamo inferiori al Bayern, ce la giochiamo a Monaco perché, come dire... è ancora aperta la qualificazione, io sono fiducioso. Sì. Mi piace fa bene anche quest'anno, se. Più degli altri anni che... fa bene anche se mi sembra evidente la differenza tra Juventus e Bayern dal punto di vista, ma ne parlavamo prima, tecnico, qualitativo, quantitativo. Il Bayern, ha ragione lei, è insieme al Barcellona la squadra più forte d'Europa, e però la Juventus, questa Juventus certamente non andrà a Monaco a farsi prendere a pallonate. Su questo, questa è una certezza che ho. Non so se c'è anche Gianni. Pronto? Gianni. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Io sono convinto che ieri sera, pur avvalorando la tesi del dottor Pardo, la Juve, quando dice che è palese la differenza tra Juventus e Bayern, ieri sera la Juve abbia perso la possibilità per alcune scelte tattiche di giocarsi con qualche chance in più la partita di ritorno. Quali? Beh, la scelta di Mandžukić, che ad esempio non è riuscito nel primo tempo a trasformare due palle gol nitide, non difficilissime dal punto di vista tecnico. Il fatto che non abbia vinto un duello spalle alla porta con Vidal, cosa che invece Morata ha fatto molto bene da quando è entrato. Il fatto che abbiamo messo Pogba a ricevere palla sempre spalle alla porta e difficilmente può girarsi senza fare un numero da circo, come è stato detto prima, quindi... Sì. Non lo so, Allegri ci ha messo del suo in negativo? Non credo, credo ci abbia messo del suo in positivo, perché citavamo prima i cambi che ha fatto e che hanno portato benefici alla Juventus, lo stesso Morata, Hernanes che nessuno se l'aspettava, ma non sono così d'accordo, è chiaro, Mandžukić ci rientrava da un lungo infortunio e anche questo era può essere un attenuante per la Juventus, così come che dire che certamente non è al 100% delle condizioni fisiche, però a me sembra che Mandžukić, al di là di quello che può aver sbagliato sotto porta, abbia fatto un partitone da ogni altro punto di vista con una squadra, contro una squadra così fisica come il Bayern di Monaco, quindi tenderei ad assolvere Allegri per le scelte iniziali e anzi a promuoverlo per gli inserimenti in corso d'opera. Io credo che sarà importante il recupero di Alexandro, ad esempio, nella gara di ritorno, perché alla Juventus contro il Bayern servono da morire, secondo me, i giocatori in grado di saltare l'uomo in velocità. Ieri Cuadrado ci è riuscito pochissimo, Dybala l'ha fatto, ha giocato un'eccellente partita. Sono questi i giocatori che possono cambiare qualche cosa. Magari vedremo una Juventus alzare un pochino, come dicevamo prima, la linea di incontro, come si dice nel rugby, cioè alzare un pochino il baricentro quando non è in possesso di palla. Giacinto, buongiorno, come sta? Sì, buongiorno, molto bene, grazie. Volevo fare qualche considerazione a proposito della partita di... Mi sente? Sì, certo. Ecco, secondo me bisogna andare un po' indietro, mi spiego. Parliamo tanto dell'approccio, ma secondo me bisogna considerare un po' anche la preparazione della partita dal punto di vista psicologico, ecco. Lavorare sulla mentalità, cioè farla inculcare, ecco, mentalità vincente, nel senso, e anche come ad esempio contro il Bologna o contro il Frosinone magari qualcuno poteva riposare, ecco, perché questa è la partita della stagione, ecco. E ho capito, però anche le altre lo erano, anche le altre lo erano, Giacinto, perché non dimentichiamo che la Juventus ha l'obiettivo della Champions League, ha l'obiettivo di passare questo turno, ma ha anche l'obiettivo del campionato. Però questa è la partita della stagione, perché a parte l'anno scorso rischiamo di nuovo a marzo di vedere poi le coppe in TV, perché siamo realisti. Beh, l'anno scorso Juve... mi sembra che l'abbiano vista dal campo, Sì, infatti ho detto a parte l'anno scorso, cioè, qua, perché bisogna essere realisti, quante possibilità abbia la Juve, diceva il suo ascoltatore poco fa, dal 30% sono scese al 20%, secondo me sono molto meno. Non saprei dire, certamente è stato centrato l'obiettivo che era stato disegnato da Buffon alla vigilia, cioè vogliamo andare a Monaco avendo ancora la speranza di poter passare il turno. La Juventus la speranza di poter passare il turno ce l'ha con questo 2-2, certamente è chiaro che lo 0-0 sarebbe stato molto più comodo. Allegri però aveva già detto non mi aspetto uno 0-0, quindi ha indovinato anche lui. Direi che l'obiettivo è stato centrato, che comunque fin dall'inizio, fin dal momento esatto del sorteggio, il Bayern Monaco aveva il favore del pronostico in questa sfida che l'ascoltatore definisce sfida dell'anno e ha pure ragione, però non nascondiamoci, cioè il Bayern fin da quel giorno era favorito e magari la Juventus finirà per rimpiangere quella maledetta notte, l'unica sbagliata peraltro in stagione, a Siviglia, in cui non riuscì a centrare il primo posto nella classifica del girone, cosa che aveva praticamente in mano. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio. Come stai? Bene. Ti posso far sentire un Guardiola? Come no? Questo. Ma se mi dici che mi è sembrato la partita nel complesso di tutta, e ha fatto una grande, grandissima prestazione. Non possiamo dimenticare contro che squadra giochiamo, eh? L'ultimo finalista della Champions, 4 scudetti di fila, 15 partite da vittoria di fila. Sono molto contento, forse la serata più contenta che ho avuto come allenatore nella mia carriera. Tanta roba, Filippo, con tutte quelle che ha esagerato. Ma dai, perché la manita a Mourinho se l'è dimenticata. Qualcuno l'ha vissuta, Ha alzato anche qualcosa al cielo, Guardiola. È veramente un tribunero, come si dice qua. Viene da Torino, no? È uno che gioca per il pubblico che ha. Dai, questa è una dichiarazione scandalosa. Scandalosa addirittura. Ma sì, dai, come è stata una delle più grandi serate, vuol dire, diceva 2-0, ha giocato per un'ora in maniera celestiale. No, ma poi, sai, onestamente, quelle che ti ricordi sono quelle dove c'è un trofeo sul tavolino quando entri in campo. E alla fine quel trofeo diventa tuo, non è in un, in un ottavo di finale gara di andata. Allora il 6-1 al Porto l'anno scorso, che li avevano massacrati, per dire, no? Che un calcio celestiale. No, non sei intenerito, Pep. Sì, ha fatto un po', ti dico, un tribunero, nel senso che così, cioè, era a Torino, gli amici italiani, ha fatto un po' qualcuno. Tribunero, tribunero uguale paraculo, è questa la traduzione. Bene, adesso abbiamo capito perfettamente, dallo spagnolo all'italiano. Traffico, come si dice traffico in spagnolo? Traffico, con una sola S. Traffico, tu stai lì, c'è il traffico. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Tutti convocati. Di allegria, nascio mi fanni alla terra dell'amore. Si accentra improvvisamente, prova il tiro deviato, rete! Cristiano Ronaldo, che gol! Eccezionale l'acuto del fuoriclasse, colpo di scena. Chi todo il mondo sa questa verità, chi ti ora quando tiene che marciare. Juarez va a Ciro e trova un gran gol. Guarda il vantaggio del Villarreal al minuto 82. Sempre la ricorderà, che viva l'Espagna. Lo intenta João Cancelo, combina con Mina e sta Santi Mina, le hace la diagonale por dentro. Gol de Parejo. Espagna la mejor. Oh, la frappe de Ruiz, socorro! Passea por la arena su quadrilla con esa gracia de Hidalgo español. Ora si aprono gli spazi che Barcellona vuole, è libero anche Messi. Neymar cerca la pulce, Messi, è il gol del Barcellona, arriva al 71esimo. Ci manca il gol del Siviglia, ma più che viva la Spagna, siete ingordi da morire, veramente bulimici. 6 su 6. 2 gol incassati, 15-0 di parziale. Anche. Ma che noia, che noia. Posso tifare contro qualunque squadra spagnola da adesso fino alla fine? No, cosa che peraltro ogni tanto faccio, non è che impazzisca di bile. Poi li ammiro, poi contro Athletic Bilbao non farò mai il tifo. Però se stasera l'Atletico non vince, diciamo che non mi dispiace, Ricci. Vabbè, questa è la squadra che ha più difficoltà, perché l'Atletico, essendo la squadra più italiana... Gioca anche contro il PSV. Esatto, però è una squadra che fa una fatica a segnare clamorosa, e l'altro giorno scrivevo questa cosa, e ho trovato veramente divertentissima, che c'è il... il Calderon è lo stadio dove in Liga si è segnato di meno. Ah sì? Cioè tra avversari vale tutto, no? Diciamo proprio gol visti al Calderon, al Calderon, al Calderon allo stadio si vedono meno gol. Ci sono le reti ancora immacolate. Non segna mai, quindi gli avversari vedete, fanno ancora più fatica. Profumate di lavanderia, sì. Sì, sì, sì, sì. Sì. No, però io ti dico, non è casuale. Poi vediamo, voglio dire, i conti si fanno sempre alla fine, però è chiaro che... Non è casuale questo filotto? No, perché beh, se tu pensi le ultime... quante sono? Gli ultimi 9 trofei in Europa... No, ma lo so, insomma, non c'è niente di casuale. Lasciando stare le due grandi, o tre, due e mezzo, se vogliamo, con l'Atletico, però è che è il livello medio che è alto. A me fa ridere, io appunto sono molto, diciamo, suscettibile, il mio tallone d'Achille, che no, in Italia si dice, ah, ma la Liga non è competitiva, sono tre partite. Non è vero, cioè proprio il contrario, che qui è molto competitiva, lasciando stare il Barcellona che... Sì, ma sai, io sono sempre stato convinto dell'idea che il valore di un campionato lo pesi dalla consistenza della classe media, della borghesia. Qui è altissimo, Carlo, cioè qua il livello è altissimo, la borghesia è questo, perché e anche le squadre piccole aiutano, perché è vero che siccome se la giocano sempre, poi magari ogni tanto ne prendono 6, o anche ogni spesso, più che ogni tanto, no? Però perché provano sempre a giocare e a volte riescono anche a mettere in difficoltà le grandi. Io lo trovo, prima cosa, molto più piacevole. Sì. E poi fa bene. L'altro giorno ho intervistato Bonera, no? A me è piaciuto un sacco le cose che ha detto. No? Lui dice io qua mi trovo in difficoltà, dice lascia stare che ho 35 anni, dice ormai no, non sono più. Dice però io mi sono allenato con 15 anni in Serie A, 9 anni al Milan, con consulenti allenatori. Dice qui, quindi gente brava e preparata, sì, c'è un'intensità diversa, perché comunque anche la squadra piccola, provando a giocare, deve correre molto di più, sì, perché il terzino, sì, deve salire, lo stopper deve lanciare e fare gioco, sì, il centrocampista, sì, deve arrivare in area, e l'attaccante deve abbassarsi ad arrivare. Sì, è un calcio molto meno tattico, è un calcio molto meno tattico, esatto, molto più aperto. Io spero che comunque domani almeno Napoli faccia la festa a Villarreal. Su sì, questo no, siamo no, d'accordo, no. Eh? Sì, no, io tifo tutte le italiane e ti dico, mi dispiace moltissimo per quanto è successo a Roma, all'Olimpico, perché secondo me, dico, la Roma ha buttato via una grandissima occasione, perché questo Real è fallibile, però è chiaro, il gol di Cristiano Ronaldo cioè, è un gol di un campione, la Roma il campione non ce l'ha. Basta. Fine. No? En passant, poi ne parliamo dopo il GR. Poi chi vuole andare su Radio Maria, vado su Radio Maria, come ha minacciato ieri un ascoltatore. Se parlate, sentite ancora. Ha detto: se pronunciate ancora il nome di Totti, vado su Radio Maria. Ma poi è tornato, Filippo. Poi ha scritto un altro messaggio. Tornato perché su Radio Maria parlavano della Juventus. E gli ho detto: caro ascoltatore, adesso parleremo della Juventus. Che dovevi dire prima del TG? En passant, la tua su Totti? Gestita malissimo, da parte di tutti. Una pessima gestione di un crepuscolo complicato, reso ancora più complicato da Roma, dall'ambiente, dalla città, dal peso specifico del personaggio, dei tifosi. Non bisognava arrivare a questo punto. Adesso è un casino per dirla così, insomma, alla romana. Per me, cioè, Totti non fa fatica adesso a giocare, soprattutto se la Roma vuole vincere lo scudetto o andare avanti in Champions e misurarsi contro il Real Madrid. Probabilmente per Totti non c'è posto, però prima cosa contro il Real Madrid io l'avrei fatto entrare, diciamo, molto prima, così anche per vedere l'effetto che fa. Per vedere l'effetto che fa e poi per non umiliarlo, perché secondo me qui, dal mio punto di vista, qui sta l'oggetto di contendere. Poi intorno a quello hanno sbagliato tutti, Totti a fare quelle dichiarazioni, la vicenda è stata gestita male, Spalletti a mandarlo via da Trigoria probabilmente è stato eccessivo, eccetera. Però Filippo, se tu fai entrare, che ne so, Raul a 3 minuti dalla fine, nell'ultimo anno, non è una cosa bella, non sta bene. Ma poi ti dico, e poi comunque quella partita lì, che era una partita anche, se vogliamo, no, affidata un po' a gesti del singolo e così, Ci stava, la Roma non aveva niente, aveva fatto un'ottima partita, poi era andata sotto. A quel punto, io quando lo vedevo lì dico, ma o non lo porti in panchina. Esatto, o non lo porti in panchina e dici no, guarda, non ci stai più, non ti porto nemmeno in panchina, sei in tribuna, poi il resto veditelo tu. Allora così mi sta bene, però metterlo a 3 minuti alla fine, secondo, a me è parsa un po' una provocazione oltre che un'umiliazione per Francesco Totti, perché non è vero che i giocatori sono tutti uguali. Grazie Filippo, non mi sembra il caso di spendere parole sul Barcellona di ieri sera, 2-0 in passeggiata sul Tamigi contro l'Arsenal. Ne parliamo la prossima figurati un po', Arsenal che sta inseguendo, come detto, il Leicester di Ranieri ed è lì ad un passo. Grazie Filippo Maria Ricci, torniamo dopo GR e ve l'ho detto, riparleremo di Totti oltre che di Formula 1. Saluti tutti convocati. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Convocati. Allora, tanto per cominciare voglio tirare sul morale ad esempio a Giacomo, juventino di Bergamo, che ieri sera era allo stadio come sempre, ci hanno asfaltato, il risultato è una foglia di fico, enorme pessimismo per Giacomo. Ebbene, tiro sul morale a tutti i tifosi juventini dicendo che Chiellini e Alessandro si sono allenati oggi con i compagni a Vinovo e sono pienamente recuperati per la partita con l'Inter, dunque per il prosieguo della stagione, ovviamente per Monaco di Baviera, ed è inutile sottolineare quanto siano importanti. Buongiorno Stefano. Buongiorno, volevo fare i complimenti per la trasmissione, volevo fare un complimento a Pardo, perché ieri sera è stato stupendo, e volevo parlare e rispondere a Cruciani, quello della Repubblica, non so, che ha fatto l'intervento sulla Juventus, che è stata la grazia del Bayern Monaco. Premetto che è stata il Bayern Monaco, ha giocato benissimo, però l'arbitro è in peggio. A chi si riferisce? Non ho capito, se si riferisce aspetti, Stefano, non ho capito, si riferisce a Cruciani o a Crosetti? Crosetti, il gol bisogna metterli dentro. Sì. Graziato no, l'arbitro sì, non ci vogliamo prendere a queste cose, perché il Bayern Monaco, premetto, è stato una grandissima squadra, ha già visto. Però se l'arbitro non aiutava in due occasioni, non diciamo rigore, sì, però, perché si può fischiare o no. Però io credo che da tifoso juventino abbia apprezzato il fatto che la Juventus abbia glissato sull'argomento, o no? Avrebbe preferito vedere gli stracci che volavano? No, ha fatto la dirigenza è stata stupenda, ha sorvolato. Come dice il giornalista, che tutto è un giornale sportivo, ha detto lui è derubata. Sì, sicuramente no. Il però che l'arbitro mi sembra ha messo anche la sua parte. L'arbitro ha arbitrato male. Atkinson ha arbitrato male. In questo cattivo arbitraggio la Juventus ci ha rimesso. Però io ripeto, apprezzo moltissimo l'atteggiamento della Juventus, che non è andata dopo la partita a strillare contro questo arbitraggio. Che sta dicendo Dybala a Sky? Penso che nel primo tempo abbiamo avuto delle opportunità per fare il gol. Dopo il secondo gol penso che siamo usciti un po', no? Da nostra metà campo, e penso che abbiamo fatto sbagliare un po' il buzzer che ci ha portato a fare il pareggio. A fine partita proprio, pensando a come sono andati i 90 minuti a caldo, la vostra prima impressione qual è stata? Che potevamo crederci che la prossima partita possiamo fare il risultato che vogliamo, no? Se giochiamo con questa voglia, con questa grinta che abbiamo fatto nel secondo tempo, penso che con umiltà possiamo fare anche del male noi al Bayern. Il tuo gol, il primo in Champions, ha dato un po' la scossa. Ti chiedo, insomma, in quei momenti cosa ti è passato per la testa, se lo aspettavi da tanto tempo, che tipo di soddisfazione è? Aver segnato in Champions è una cosa per me bellissima, perché l'avevo cercato anche nelle altre partite che purtroppo non è arrivato, però penso che il mio gol è stato importante per caricare le squadre, per caricare la gente che ci ha aiutato tantissimo ad andare in avanti. Penso che mi avrebbe piaciuto festeggiarlo, però eravamo sotto di 2 gol, quindi dovevamo fare il pareggio. Questo è Pablo Dybala, non dimentichiamolo, abbiamo sottolineato già prima che per lui era la prima partita di tale spessore, di tale livello in carriera, quindi bravissimo, a maggior ragione ieri sera, al di là del gol. Fabrizio, buongiorno. Ciao, sono Fabrizio. Ciao. Dunque, io sono un po' come l'ascoltatore precedente, sono d'accordo in parte con lui, perché sì, l'arbitraggio non è stato proprio, diciamo, perfetto, perché in Europa si vede anche di peggio, e siamo stati fortunati e sfortunati allo stesso tempo, non so, e anche se si potevano giocare diversamente, potevano esprimersi magari prima. Cos'è questo rumore che sento dietro, Fabrizio? Come sei? Sono in officina. In officina? Cosa si costruisce da quelle parti? No, faccio il falegname, faccio. Ah, grande mestiere, grande lavoro. Grandissimo. Facciamo cambio? Fossi capace. Volentieri, dai. Fossi. Non so parlare come te, ma... Io sicuramente ne so meno di te con la lavorazione del legno. Mi piacerebbe tantissimo. Beh, comunque, insomma, ieri sera non credo che il risultato, come scriveva l'ascoltatore di prima, sia una foglia di fico. Credo sia, invece, come ha detto Pardo, una via, anche se difficile, anche se in salita, per continuare a sperare, per andare a Monaco, che in fondo era quello che si voleva, con una partita ancora da giocare, con una speranza ancora a bruciare dentro. Intanto Chiellini, Alessandro, ripeto, e Asamoah sono recuperati totalmente, giocheranno, cioè saranno disponibili contro l'Inter. Non ci sarà invece Marchisio, che come sapete è uscito ieri sera, ha preso una botta non da poco e ha un affaticamento muscolare, e quindi sono da valutare le sue condizioni. Ragazzi, non andate su Radio Maria, devo farvi sentire una poesia di Andrea Rivera. La Roma, senza il capitano, è come fa l'amore solo con la mano. È come una tela senza il pittore, è come un libro senza le parole. È come la Lazio senza il Frosinone. Poracci. La Roma, senza il capitano, si ridimensiona, diventa una romina, ma senza Arbano, ai Castelli. La nazionale io la guardavo solo per te, e sto fatto non me quadra. Quando uscivi, io ti favo per l'altra squadra. La Roma, senza il capitano, è una mamma senza il pupone. Ve lo dico senza mezzi termini, è un treno senza la stazione. La Roma potrà pure vincere senza Totti, ma senza le sue magie in campo avevamo perso tutti. Quindi alla faccia dell'Aquila Rapace, ve prego, datemi un bacetto e fate sta cazzo di pace. Ti è piaciuto Andrea Valdiserri dal Corriere della Sera? Diciamo che hai sentito, hai letto di meglio. Magari, diciamo che hai letto, sì, di meglio, eh? Diciamo che, come dire, se poi non entrerà nella storia della poesia italiana e mondiale, no, però è no. Chiaro che stiamo parlando di un tema, questo sì, universale, cioè che tutti invecchiano, che forse adesso c'è poco rispetto per chi invecchia. No, ahimè, non solo nel calcio, ma anche gli altri campi. Sì, Luca, sono d'accordo. Poi ci sono tanti aspetti da toccare da questo punto di vista. Ad esempio, il momento più difficile della carriera di un calciatore, che è quello di capire quando darla su, come dicono a Bologna, quando è il momento di staccare, perché non ci sono riusciti davvero in pochi. Maldini pure ha ballato, forse nessuno. Maldini ha ballato un paio di stagioni di troppo, ma ce ne sono Zanetti anche, ce ne sono tanti che hanno ballato qualche stagione in più. Totti è uno di questi. L'unica cosa è che, insomma, io avrà ragione Spalletti, avranno sbagliato tutti, avrà sbagliato Totti, avrà sbagliato Pallotta, che deve arrivare, come scrivi tu oggi, con un sacco di emergenze sul tavolo. Però io l'unica cosa che dico è che quei 3 minuti sono stati un insulto a un giocatore che non è uguale agli altri. Abbiamo anche una voce di Del Piero, che avrai sentito, che è questa. Ci sono anche esempi positivi, penso quello che è successo a Manchester con Giggs, o anche in Italia con Zanetti all'Inter, quindi ci sono... per fortuna non ci sono prodotti uguali, e quindi diciamo così, dal punto di vista televisivo non ci sono prodotti uguali. Cosa sia più giusto o meno, lascia poi spazio a argomentazioni ben, molto più ampie, che meritano delle riflessioni molto più profonde, a mio avviso. Vabbè, Del Piero va sempre giù molto delicato, però è capitato anche a lui con Conte di entrare nel tempo di recupero, e secondo me rimane una cosa per un giocatore che non è uguale agli altri in elegante. Sì, vabbè, io che sono più vecchio mi ricordo ancora addirittura Gianni Rivera alla finale del Mondiale 1970, ma secondo me questo certo può dare fastidio, ma un calciatore in qualche modo lo mette in preventivo. Può capitare la volta che ti faranno entrare troppo tardi, magari tu pensavi che con te in campo, anzi il calciatore pensa sempre che con lui in campo. Sì, ma stiamo parlando di calciatore, stiamo parlando di Totti. Cioè, onestamente, Luca, no, tu sei Francesco quello... Totti, ti fanno entrare a 3 minuti dalla fine, ti incazzi o no? Io sì. Ma sì, però io credo che sia un'altra cosa che ha dato ancora più fastidio a Totti, e nel piccolo ha dato fastidio anche a me. Se tu commetti un errore, ci sono due strade poi su chi decide, no? O ti dà una pena esemplare, oppure pensa a tutto quello che hai fatto, a chi sei, e esiste anche il perdono, no? Nel senso, è vero che bisogna gestire i gruppi, è vero che bisogna dare l'esempio, tutto questo sono tutte delle leggi, magari anche, ma poi c'è la persona, il caso sì, il caso personale, tant'è che pure la giurisprudenza non è mai uguale, no? Cioè non c'è una pena definita per ogni reato, c'è un range di pene, no? Puoi andare dal carcere al semplice ammonimento, al fatto che e allora su Totti, che te lo dico da romanista, che sai quanti milioni di volte Totti ha dato una palla eccezionale a un suo compagno e quel compagno l'ha sprecata? Milioni di volte. Sì. Sai quante volte Totti l'ha proprio mandato a quel paese? Mai. O quasi mai. Ha avuto una pazienza con dei brocchi che gli giravano attorno, che lo devono fare santo per questo. E allora, la volta anche che perde la pazienza, la volta anche che sbaglia, fa una dichiarazione, c'è il perdono, Spalletti, c'è il perdono. No, capito, non lo mandi a casa, non gli dici ti tolgo dalla lista, gli dici Francesco, oggi mi hai deluso, vai in campo, fai 2 gol, fammi vedere che sono io che ho sbagliato. E poi ne riparliamo. Io la penso così. Sì, poi, anch'io. Ognuno ha la sua. Sì, poi arriverà Pallotta, stretto giro di posta, lo scrivi tu, ha anticipato il suo viaggio. Bocca al lupo. Mister Pallotta in bocca al lupo, Mr. James. Ha distrutto Garcia. Praticamente, in un'intervista che ho letto ieri sul Corriere dello Sport, Garcia ha disintegrato. Lasciamo stare poi la signorina Brienza, che ha messo quel like su Spalletti, te butto giù dal ponte o qualcosa del genere. Però quello adesso, purtroppo, vabbè, è come dire, siamo cascati tutti. Vabbè. No, nel senso, i social media sono così. Se ci stai tanto, sbagli. L'importante è starci poco, magari sì, hai ragione. Starci bene. No. E starci bene, o magari non starci affatto, non lo so, poi ognuno fa come vuole. Ognuno fa come vuole. Senti, cosa farà Pallotta con Totti? Totti vuole giocare ancora. Pallotta si siederà, gli dirà cosa vuoi fare, e Totti gli dirà, te l'ho detto in tutte le maniere possibili, immaginabili, voglio giocare ancora un anno. Magari non qui. Non qui. Totti giocherà a Roma. Se giocherà. Sì. Non lo vedo. Non lo vedi ad esempio negli Stati Uniti? No. A giocare un anno. Ma perché? Cosa ci guadagnerebbe? Quale soldi non ne ha bisogno? Visibilità non ne ha bisogno. Ha una moglie che sta qua, lavora qua, avrà prestissimo un terzo figlio, per cui anche lì che fai? Io sono Hillary e gli dico guarda, in America ci vai tu, io sono qua il terzo pupo, preferirei restare a casa. E te lo vedi Totti da solo negli Stati Uniti? Va alla Beckham o non se ne parla neanche, però insomma, posso dirti che sarebbe, cioè, penso sarebbe un errore continuare a ballare ancora. Non lo so, io penso che l'unica cosa che auguro a Totti è di essere felice. Se è felice, se pensa di poter essere felice qua, rimanga qua. Se pensa di essere felice altrove, per quanto mi riguarda, vai, divertiti, fatti ritornare il sorriso che hai sempre avuto. Però questa è una storia molto particolare, no? Io ho sentito giustamente fare tanti paragoni del Piero Maldini, Zanetti, Gerrard, ma solo Totti è nato e cresciuto in una squadra che aveva vinto poco e ahimè anche con lui ha vinto meno di quello che poteva vincere e si meritava magari di vincere. Per cui è un insieme di condizioni uniche, perché Del Piero non è nato a Roma, non è nato a Torino, sì. Zanetti non è cresciuto nei pulcini dell'Inter e così via. No, c'è anche Paolo Maldini, ci può essere l'esempio dello zio Bergomi, cui pure era stato promesso un posto in società e poi l'ha dichiarato nei giorni scorsi, Lippi mi fece fuori. Io gli voglio tanto bene allo zio Bergomi perché è nato nel 63 come me, però... tra Bergomi e Totti adesso. No, ma non stiamo facendo paragoni. E Maldini, che è stato un gigante assoluto, figlio di un altro gigante, però sai il Milan quanti ne ha avuti di giocatori fenomenali nella sua, ahimè, molto ricca storia di vittorie. La Roma non ha un paragone. La Roma, se togli Totti, pensi a Falcao. E poi il terzo è Bruno Conti, che sarà un altro che, ahimè, deve adesso... Sì, deve reinchiostrare, no? ...discutere il suo futuro, Sì, è uno degli altri problemi con cui si dovrà confrontare Pallotta. Un altro problema è quello di Sabatini, per chiudere, Luca, che insomma ha già detto un paio di volte, forse tre, che se ne andrà. Tra l'altro leggo notizie dell'agenzia secondo cui Conte è vicinissimo al Chelsea, che deve solo decidere se prendere lui oppure no. Vorrebbe Nangolan e appunto Sabatini. Ma può darsi, però anche qua parliamo di strutture importantissime, tipo il Chelsea. Io non so se Sabatini, non so per esempio come se la cava con l'inglese, È sempre difficile quando sei abituato a casa tua andare altrove. Non so, su Conti è un altro discorso, perché Bruno Conti è stato con Totti, per Rossa, De Rossi, campione del mondo con la maglia della Roma, certo, no? Certo. Non sono stati tanti, certo. E allora secondo me sarebbe davvero un peccato che la Roma perdesse ancora un pezzetto della sua storia. Poi naturalmente se il Milan ha mandato via in quel modo Gianni Rivera, qualcuno dirà beh, allora anche la Roma può mandare via Bruno Conti. La Juventus ha mandato via in quel modo Del Piero il Milan ha mandato via in quel modo coi fischi. Noi a Roma ci sentiamo un po' diversi dagli altri, per cui ci spiace di più se manda via un pezzo di storia. Gli altri ne hanno avuta di più, sarà quello. Quando hai avuto tanti pezzi di storia calcistica, se ne perdi uno ti consoli con gli altri. Qua ce ne sono stati non tantissimi e quelli ce li vorremmo tenere. Grazie Luca, grazie. Ciao, a presto. Ciao Luca Valdiserri. Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Alberto da Treviso. Sì. Sì, te volevo tornare di nuovo sull'argomento della Juventus ieri sera sulla partita di Champions, a fare due piccole considerazioni. Prego. Allora, bene o male, ieri sera la Juventus è stata... comunque è stato un trionfo, per quanto sono juventino, per come si era messa la partita, perché avremmo potuto spegnere il televisore e essere sicuri dell'eliminazione. Sì, con questa squadra il televisore consiglio di non spegnerlo mai. Comunque ad una cosa bisogna dire, per la partita di ritorno la fiducia può esserci sul fatto che Alessandro potrebbe tornare e avrebbe sicuramente... Già è tornato e potrebbe giocare dal primo minuto e avere più possibilità di fermare Robben e dare un po' più spinta sulla fascia. Dopodiché un'altra considerazione volevo fare era che comunque non condividevo l'ascoltatore di prima, in quanto quando diceva che la partita di Mandzukic era stata sottotono, lei invece ha giocato un partitone, che ha fatto una partita di un pressing, di una fisicità mostruosa, trovo fuori luogo criticare la partita di Mandzukic di ieri sera, perché ha giocato con una intensità spaventosa, quindi non lo misuri solo dai gol che fa un attaccante così, lo misuri da un sacco di altre cose, quindi sono perfettamente d'accordo con quanto hai detto. Lorenzo, buongiorno. Buonasera. Buonasera. Anche io volevo parlare della Juventus. Da amico o da nemico, visto che chiama da Firenze? No, io da amico, cioè da sportivo anche. Secondo me non c'è niente da dire, cioè il Bayern è una grandissima squadra e gli mancavano difensori centrali, Boateng sicuramente l'ha detto anche questa curta, è uno dei migliori centrali del mondo. L'altro è Bad Stuber, e quel, sì, quello, quello che abbiamo visto Bad perché Stuber ultimamente è stato infortunato, sì, però quel anche Martinez, Martinez magari... altro giocatore molto importante, e quelli che c'erano in campo ieri sera mi sono piaciuti pochino, perché quel Kimmich io lo vedrei bene in una buona squadra di mezza classifica italiana, facciamo così. Ragazzo giovane, 95, fino a quel momento lì aveva fatto bene. Poi è stato anche Rudiger è tedesco, è molto giovane, ma sono contentissimi della Roma. Da quando è arrivato Spalletti è migliorato molto, anche quando ha giocato esterno basso, ha una gran corsa. Beh, morale, fiducia o no? Ma fiducia, sicuramente Bayer è il favorito, però secondo me se la Juve riesce a recuperare tutti i giocatori, soprattutto Alessandro, può fare la difesa a tre. Per esempio ieri, secondo me, con Barzagli, con la difesa a tre, il primo gol non l'avrebbe preso. Ma io, su questo al momento dubbi non ce ne sono, perché sia Alessandro che Chiellini, che è lo stesso Asamoah, si sono allenati oggi, sono disponibili addirittura per la partita con l'Inter, quindi... Crociamo le dita, se non succede nulla vanno a Monaco di Baviera e giocano. Sarebbero giocatori molto importanti, ve l'abbiamo già detto. Grazie. Saluto e ringrazio invece Antonio Boselli da Sky. Ciao Antonio. Ciao, buona giornata. Ciao. Buona giornata a tutti. Senti, come stanno andando i test a Valencia? Fammi rapido quadro. Sì, guarda, velocissimamente. In questo momento è Hülkenberg davanti a tutti con la Forsiglia. Forsiglia che sta stupendo, 46 giri per il pilota tedesco. In realtà sappiamo che l'attenzione è tutta per la Ferrari e la Mercedes, perché questa è la sfida che ci aspettiamo. Vi dico che Raikkonen in questo momento è seconda, ha fatto 18 giri, è stata una mattinata un po' difficile, perché dopo Vettel ha fatto tanti giri prima, soprattutto il secondo giorno, è salito in macchina Kimi Raikkonen, è subito il sistema di pompaggio della benzina della Ferrari, la nuova SF16H, non ha funzionato. È stato un po' di lavoro nel box, però adesso sta girando in pista, indietro, terzo tempo di maggio secondo Renault, quarto Rosberg con la Mercedes, ma attenzione, perché chiaramente sono tutti che sono relativamente indicativi, questo siamo certo sono i test, questo manca ancora tanto, quelle gomme sono diverse, la Raikkonen per esempio l'ha fatto con le medie, mentre Hülkenberg, che è primo, come dicevo, ha fatto con le soft, ma soprattutto Mercedes e Ferrari stanno facendo due lavori completamente diversi. La Ferrari sta scoprendo un nuovo monoposto, la Mercedes pure, ma soprattutto sta facendo tantissimi giri, pensate che ha fatto praticamente 6 Gran Premi in due giorni tra Hamilton e Rosberg. Sono abbastanza impressionati tutti gli addetti al lavoro, perché sappiamo che la Mercedes è la squadra da battere, ma già così hanno fatto vedere che di essere affidabili, di aver già trovato molto affidabili. Comunque i primi exit poll sono positivi per la Mercedes, ma anche per la Ferrari, perché i tempi di ieri sono qualcosa che ha dato molta fiducia. Sì, allora la Ferrari ieri ha fatto un lavoro diverso con Vettel, perché a un certo punto l'ha messa in pista con le gomme ultra soft, che tra l'altro è una novità tra le tante che saranno introdotte quest'anno e anche l'anno prossimo, quindi quelle gomme veramente molto molto performanti, ha fatto un ottimo tempo. È chiaro che si fanno delle proiezioni per cui si vede la gomma che aveva Rosberg per il tempo che ha fatto Hamilton con il carico di benzina. Alcuni sostengono che la Mercedes in qualifica sarebbe ancora davanti, oltre mezzo secondo, ma sono tutti ragionamenti virtuali. Virtuali, certo. Perché comunque la Ferrari è una macchina completamente nuova. Certo. E come diceva Ross Brawn, prima di riuscire a sfruttare il potenziale di una monoposto ci vogliono dei mesi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Ferrari adesso probabilmente è dietro alla Mercedes. Magari lo sarà anche all'inizio dell'anno, ma ancora non possiamo saperlo, e magari ci sorprenderanno. Però il margine di sviluppo è un margine di sviluppo importante. Sappiamo che è una sfida difficile, se non proibitiva, però questa è la storia della Formula 1. Bisogna fare qualcosa inaspettato, se vogliamo anche difficile, se non impossibile. Qualcosa di creativo, però vale, vale dire mai ci provi, mai ci riesci, Antonio. Quindi soprattutto mi sembra... l'anno scorso la Ferrari dal 2014 al 2015 ha fatto un balzo in avanti, talmente importante, appunto, che possiamo aspettarci anche quest'anno. Appunto. Grazie Antonio, a presto. Grazie, buon lavoro. Ciao Antonio Boselli, saluto anche Giorgio De Luca, nostro autore, Andrea Roccabelli in regia, Federico Bini in redazione. Ci sentiamo con tutti i convocati domani pomeriggio alle 2. Ciao. Signori, alla prossima!